Benz Money Gang Culto. Gang, gang. No, no. Gang. Bu, bu, bu, bu, bu, bu. Spacciatori negli androni, no, no. Spiri fuori dai balconi, no, no. Non voglio più avere problems, no. Quindi stronzo dammi money. La tua bitch mi chiama Honey, se mi chiama tutti i giorni, ora che ho un sacco di cloni e un iPhone 6 nei pantaloni. Cavallini sulla mia maglietta, cavallini ragazzini qua crescono in fretta. I soldi per il pane da quella panetta, rispetto solamente per chi ti rispetta. Mi trovi in giro solo solo con la squad, fumiamo questi chiacchieroni dentro al bong. In strada prima che dentro a un impianto, entriamo a volto coperto e prendiamo tutto quanto. Voglio triplicare sti stipendi, karate flow coi karate nei denti. 100.000 la taglia sulla nostra testa, cavallini col cavallino sulla maglietta. Hai sentito parlare del team, hai provato a parlare del team, ma tu non ci puoi stare nel team. La ganja e la lini, pezzi nei jeans, la fissa dei soldi è quella delle bici. Le scarpe di marca, le polo Ralph Lauren, quando fuori piove tu comunque ci trovi puoi qui. Puoi picchiarmi all'indiano che mangio pollo al curry, pollo al troia curry. Non mangio sushi, mi piacciono Fendi e Gucci. Ferragamo e Barberi incassiamo come i cassieri. Sogno montagne di soldi e i vari modi per spenderli. Giochi con la gang, mio fratello alza un cannone. Hai problemi di pressione, non ti si alza il cannone. La tua tipa è una cagna, vuole un guinzaglio, un padrone. Siamo animali, tu sei leone, il cane fifone. Giro una canna d'erba grossa come un filone di pane. Sto pensando ad alzare il mio pane. Baguette, pancarré, rosette e ciabatte. Lei non vuole fottere i miei amici, allora può andarsene. Il BG37 puoi beccarci ai rioni, in piazza coi San Pietrini in giro come i tassisti. Chi sono questi stronzi? Giuro non li ho mai visti. E se non parli di soldi, scusate, non vi ho sentiti. Dai non dire di no. Hai sentito parlare del team, hai provato a parlare del team, ma tu non ci puoi stare nel team. La ganja e la lini, pezzi nei jeans, la fissa dei soldi è quella delle bici. Le scarpe di marca, le polo Ralph Lauren, quando fuori piove tu comunque ci trovi qui. Cavalli corrono per me, puoi chiamarmi Don il Fantino. È per questo che vivo essere ricchi per sempre, sto in paranoia. Pezzi, buste nella mia Fendi, 5 grammi sto fumando il dito di un gorilla, giuro. Se non parli di soldi non sento cavallo. Pazzo nel rione all'angolo non mi fermo. Nella padella pollo e cocaina, trasformo pacchi in contanti in orologi. Mamma conta bene i soldi, troia sta lontano dai miei sogni. Essere ricco per mia nonna e per i miei giovani. Bulli dark, gang, triplo sette in cucina, chiamaci cyborg. Non parlo con le guardie, ci pensa il mio avvocato. Nah. Voglio triplicare sti stipendi, karate flow coi karate nei denti. 100.000 la taglia sulla nostra testa, cavallini col cavallino sulla maglietta. No, hai sentito parlare del team, hai provato a parlare del team, ma tu non ci puoi stare nel team. La ganja e la lini, pezzi nei jeans, la fissa dei soldi è quella delle bici. Le scarpe di marca, le polo Ralph Lauren, quando fuori piove tu comunque ci trovi qui. Ci trovi qui.